Gazzettino del 2015. Gazzettino del 2015. 10 aprile 2015. Celle fotovoltaiche organiche. Una nuova morfologia aumenta l'efficienza. Una vernice fotovoltaica organica ora anche conveniente. L'efficienza di questa vernice ha infatti superato la soglia del 10% e potrebbe crescere ancora, mentre i costi di produzione rimangono incomparabilmente più bassi rispetto alle celle in silicio e la flessibilità di utilizzo è maggiore. A dare un contributo decisivo a questa svolta nel settore delle rinnovabili è stato il ricercatore di chimica organica dell'Università di Milano Bicocca, Luca Bevarina, che proprio con la sua ipotesi di ricerca aveva conquistato 3 anni fa il 4º posto del premio Ricerca di Frontiera della Fondazione Cariplo. L'idea base era quella di sfruttare la luce anche per produrre le celle organiche. Ha funzionato, ora si attende l'effetto a livello industriale. Fin qui la notizia del 10 aprile 2015, ma come sapete il futuro ha radici nel presente, in questo 2012. In questi giorni l'ambizioso progetto di Luca Bevarina è stato premiato dalla Fondazione Cariplo con un finanziamento. L'esito della ricerca non è scontato, ma l'ipotesi è piaciuta molto. Luca Bevarina. La proposta di ricerca cerca di venire incontro a uno dei maggiori problemi del fotovoltaico organico odierno, e cioè la dimensione massima delle celle che si possono ottenere. Le celle organiche sono vantaggiose perché in linea di principio costano meno di quelle del silicio, ma sono complicate da fare quantomeno su larga scala. Il senso di questa ricerca è di produrre delle particolari vernici fotovoltaiche che sono in grado di assumere la conformazione corretta sullo strato per azione diretta della luce. Reagiscono alla presenza della luce non producendo corrente, ma organizzandosi in una morfologia corretta per ottimizzare l'efficienza. Ecco, quindi sostanzialmente utilizzando la luce si crea una morfologia di questa vernice che ne consente in una seconda battuta un utilizzo invece energetico più efficiente. Esatto, perché il problema è che in realtà le vernici devono essere due e non possono miscelarsi fra di loro. Ora, come tutte le vernici, il problema è che le vernici tendono a miscelarsi fra di loro. L'idea della nostra ricerca è quella di utilizzare una vernice che risponda alla presenza della luce diventando insolubile nella seconda, e nel passaggio di reticolazione, ciò che sistema la morfologia, questa vernice assume la conformazione che le permette di avere la massima efficienza. Quindi la luce poi farà funzionare la cella, ma la cella stessa è stata prodotta dalla luce. Quali sono i tempi di questa ipotesi, di questo lavoro di ricerca? Per quello che riguarda tradurre il nostro concetto in un oggetto funzionante, i tempi della ricerca sono ragionevolmente dell'ordine di anni. 2 anni per provare il concetto, e se il concetto dovesse essere verificato almeno altri 3 per trasformarlo in una tecnologia. È tutto per questa puntata del Gazzettino del 2015, condotta da Anna Rita D'Ambrosio e curata da Paolo Piacenza. Se volete scriverci, potete farlo all'indirizzo mail gazzettino2015@radio24.it.